50 domande su Gesù. Cos'era il Sinedrio? Il Sinedrio era la Corte Suprema della legge giudaica, con il compito di amministrare la giustizia interpretando e applicando la Torah tanto orale come scritta. Al contempo rappresentava il popolo giudeo di fronte all'autorità romana. D'accordo con un'antica tradizione, aveva 71 membri, ai quali erano attribuiti, come si riteneva, i compiti disimpegnati dai 70 anziani che aiutavano Mosè nell'amministrazione della giustizia oltre allo stesso Mosè. Si sviluppò mediante l'inserimento di rappresentanti della nobiltà sacerdotale e delle famiglie più notabili, forse durante il periodo persiano, cioè a partire dal V-IV secolo a.C. Se ne ha menzione per la prima volta, sebbene col nome di Gerusia, Consiglio di Anziani, al tempo del re Antioco III di Siria, 223-187 a.C. Con il nome di Sinedrion è testimoniato dal regno di Ircano II, 63-40 a.C. In quel tempo lo presiedeva il monarca Asmoneo, che era anche sommo sacerdote. Erode il Grande, all'inizio del suo regno, fece giustiziare gran parte dei suoi membri, 45 secondo Flavio Giuseppe, perché il Consiglio aveva osato ricordargli i limiti entro i quali doveva muoversi il suo potere. Li rimpiazzò con personaggi a lui sottomessi. Durante il suo regno e poi ai tempi di Archelao, il Sinedrio ebbe scarsa importanza. All'epoca dei governatori romani, anche in quella di Ponzio Pilato, il Sinedrio esercitò di nuovo le sue funzioni giudiziali nei processi civili e penali nell'ambito del territorio della Giudea. In questo periodo di tempo le sue relazioni con l'amministrazione romana erano fluide e il relativo ambito di autonomia di cui godeva era in consonanza con la politica romana nei territori conquistati. Tuttavia, la cosa più probabile è che la potestas gladii, cioè la capacità di pronunciare una sentenza di morte, fosse riservata al governatore romano, prefectus, che come d'ordinario avrebbe ricevuto dall'imperatore ampi poteri giudiziali, fra i quali tale potestà. Pertanto il Sinedrio, sebbene poteva occuparsi delle cause che le erano proprie, non poteva condannare a morte nessuno. La riunione dei suoi membri durante la notte per interrogare Gesù fu soltanto un'indagine preliminare per mettere a punto le accuse per la mattina seguente contro Gesù nel processo di fronte al prefetto romano.